erano negli anni 60, nasce il fenomeno delle radio pirata nel mare del nord, che è appunto una situazione molto particolare per appunto evadere il monopolio delle radio, che tu come sai c'era in tutti i paesi europei. Ogni radio era solo statale, non esistevano radio private, escluso la Francia, che aveva, permetteva a Radio Lussemburgo, Radio Monte Carlo e Radio Andorra, dai rispettivi principati o granducati, di invadere la Francia con una radio in francese e fare concorrenza alla loro radio statale, che si chiama France Inter. Allora, a un certo punto qualcuno ha detto: vabbè, se andiamo fuori dalle acque territoriali, facciamo una cosa che niente, che nessuno ci può colpire praticamente. Allora hanno fatto la prova su un fortino alle bocche del Tamigi, fuori dalle acque territoriali inglesi, che tra l'altro nel nord non sono di 12 miglia come in Italia, ma sono di 3 miglia, perciò abbastanza vicino alla costa, 3 miglia marine. Allora niente, perciò hanno fatto questo fortino, che serviva nella seconda guerra mondiale per abbattere gli aerei V1 e V2 dei tedeschi, e lì qualcuno ci ha messo una radio, una trasmittente, un'antenna in onde medie, ovviamente, perché l'FM ancora, e prendevano tutta Londra, e insomma hanno fatto sta roba, che hanno visto che questo ce la faceva. Praticamente nessuno è riuscito a buttarlo giù dal fiore del fortino, perché il fortino era fuori dalle acque territoriali. Allora è scoppiato il fenomeno e molti hanno comprato dei pescheggi, delle barche, comunque con una lunghezza minima, visto che il mare del nord è un mare un po' difficile, di 30, 40, 50 metri. Montavano delle antenne e così sono nate le varie radio: Caroline, Radio Veronica, Radio North Sea International, Radio Dolphin, insomma ce ne erano diverse, Radio London 1, Radio London 2, sono nati tutti intorno al 1961, più o meno.